Che sollievo, amici. Che straordinario senso di sollievo provato leggendo sulla Repubblica di venerdì l'elenco dei 10 libri più pericolosi del mondo, pubblicato da Human Events, un settimanale americano che fino ad allora non avevo avuto il bene di conoscere, ma che ho scoperto esprimere da ben 61 anni il punto di vista dell'estrema destra conservatrice di quel paese. Quella che comincia dove si fermano i neocon e finisce un milionesimo di millimetro prima del fascismo dichiarato. Se la prima regola di chi vuole sopravvivere sull'infido terreno dell'ideologia è quella di conoscere debolezze e punti di forza dell'avversario, quel documento è lì a garantirci che di quel tipo di cultura, nonostante i molti poteri forti che le stanno alle spalle, non è il caso di avere timore. La testata in sé non sembra completamente ignobile. Dicono anzi che goda di una certa autorevolezza presso i ceti dirigenti della più grande democrazia del pianeta, ma è destinata, vista la posizione di nicchia che occupa nel mercato dell'ideologia, a non suscitare una gran attenzione a livello internazionale. La grande stampa di fatto ne ha parlato solo perché la redazione ha avuto l'idea di compilare, consultando accademici, polemisti, uomini di cultura e presunti tali, quel documento curioso. Che non rappresenta esattamente un elenco di volumi da destinare a rogo, come ha intitolato qualcuno, perché certe cose dopo tutto le facciamo solo in Europa, ma enumera comunque dei titoli che, stando ai criteri dei compilatori, a nessuna persona dabbene dovrebbe essere concesso accostare, e roba per intenderci che ha già fatto abbastanza danno perché si possa permettere che eserciti ulteriore influenza sulle menti più impressionabili. L'elenco è un po' eteroclito, ma non riserva sorprese. Salva l'inclusione d'obbligo del Mein Kampf al secondo posto e quella di un testo tradizionalmente ambiguo come l'Aldilà del bene e del male di Nietzsche al nono, consta esclusivamente di classici del pensiero democratico e di sinistra. Si apre con il manifesto di Marx ed Engels, comprende nell'ordine il libretto rosso di Mao, il rapporto sul comportamento sessuale del maschio umano di Alfred Kinsey, Democrazia ed educazione di John Dewey, il capitale naturalmente, la mistica della femminilità di Betty Friedan e la teoria generale dell'occupazione di John Maynard Keynes. Un tocco erudito, infine, è rappresentato dall'inserimento del corso di filosofia positiva di Auguste Comte. Darwin e Freud stranamente non entrano nella rosa finale, ma contano anch'essi un numero piuttosto rispettabile di segnalazioni, e al loro livello si colloca anche l'unico autore italiano citato, che è l'Antonio Gramsci delle Lettere del Carcere. Insomma, un mix ben bilanciato che rispecchia fedelmente quelle che già sappiamo essere le ossessioni del conservatorismo americano. Il comunismo, del cui asserito crollo laggiù non devono essere sicuri come lo siamo noi, la liberazione sessuale, l'emancipazione della donna e gli interventi governativi sull'economia, la libertà di ricerca e di insegnamento e il declino dei valori religiosi. Anche dal nazismo, come abbiamo visto, si prendono le distanze, ma si capisce dalla sproporzione numerica dei titoli che non lo si fa davvero col cuore. Perché dunque il senso di sollievo di cui vi dicevo all'inizio? Mi sembra ovvio. Il fatto stesso che quei 10 titoli siano considerati pericolosi dimostra che i compilatori della lista poco capiscono della dinamica delle ideologie. E non come si potrebbe pensare, perché mettono sullo stesso piano delle cose diverse, il capitale e il rapporto Kinsey, confondendo il testo base dell'analisi dei rapporti di classe con un tipico esempio di divulgazione sociologica a livello popolare. Il fatto è che tutti quei libri, in sé non minacciano assolutamente nessuno. Non sono stati scritti per quello, nessuno li ha mai usati a quello scopo. Sono analisi, vogliono essere analisi. L'analisi in sé non è pericolosa, al massimo può essere analizzato, ma questo è un altro discorso. Si può aver paura del comunismo come Berlusconi o della libertà di gestire il proprio corpo come Rotelli, ma solo gli ingenui crederanno che la rivoluzione proletaria sia stata inventata e promossa da Marx e la permissività sessuale voluta per chissà quali suoi loschi motivi dal dottor Kinsey. Nietzsche era un pensatore piuttosto radicale, o almeno si considerava tale, ma sarebbe veramente troppo onore per lui addebitargli in toto la diffusione dell'ateismo nell'emisfero occidentale. Le trasformazioni dei valori hanno una genesi complicata, nel senso che nascono dalle esigenze della vita quotidiana degli uomini e delle donne. I trattati e le analisi vengono dopo. È per questo in definitiva che vietare un libro o farlo bruciare non è mai servito a impedire una rivoluzione. E sì, direte voi, ma i libri, se non sono esattamente alle origini delle idee, comunque le generalizzano, le diffondono, per cui è un preciso dovere di tutti noi lottare contro ogni tentazione censoria, comprese quelle che si esprimono, e non da oggi, nella creazione di elenchi di questo tipo. Che è verissimo, ma molto dipende anche da di quali libri si parla. Quanto a capacità di influenzare a fondo le masse e di spingere armate di picche e forconi all'assalto delle varie bastiglie che si parano loro davanti, tabù sessuali compresi, il Capitale è stato forse meno significativo di altri testi. È troppo massiccio, è scritto in modo troppo difficile per godere di una diffusione veramente di massa. Marx, lo stesso Marx, che aveva capito il valore rivoluzionario dell'opera di un autore reazionario come Balzac, sarebbe stato il primo a convenire del fatto che ne pensino gli accademici di destra o di sinistra, le idee non viaggiano nei trattati, ma su pagine che a prima vista sembrano occuparsi di tutt'altro. Guardate, il giorno che troverò nell'elenco dei 10 libri più pericolosi del mondo il Don Chisciotte e Madame Bovary, comincerò ad avere paura anch'io di chi lo ha stilato. Finché ci mettano il manifesto e il libretto rosso, che volete che vi dica, non riesco a preoccuparmi davvero.